Cucci. Cucci, Cucci. Federico, non c'è Facebook, non è mettere. Ciao, Marcolino Condo. Vabbè, Natalie, sto provando le cuffie, mi sta facendo sordo. Questo apparato ha il volume minimo troppo alto, cioè o nulla o troppo alto, per quanto sia minimo. E in cuffia non va bene. Regalala a me. È piccolino, non ci guadagni nulla, mi. È una specie di omologato president AMFM. Assume solo, ti ascolto, però è troppo pompato. Pompa. Ci guadagno. Almeno questo lo lascio normale, tranquillo. Io mi sto facendo da mangiare, sto facendo roba di cavi cavetti. Ho provato quell'alimentatore lì, sono riuscito a mettergli un carico, chiamiamolo fittizio, per un totale di 15 ampere di carico, 15 ampere. Calava, non sono tantissime, non sono neanche poche, ma io di più non potevo. E praticamente da 13,8 scendeva a 13,3. Sai il calo degli switching, quelli piatti, no? Quelli da 13,8 a 13,3, abbondante anche. Però problema a nulla, vedo che andava. Sì, infatti. Lascialo così. È tranquillo, così. Comunque, vabbè, funziona, certo, c'è la ventola che sembra una turbina. Poi gli ho messo i piedini sotto in silicone antiscivo, quelli adesivi, un po' alti, in modo da lasciarlo sollevato rispetto a dove lo poggio, magari c'è polvere, no, perché la ventola poi dalla feritoia di sotto ti tira la polvere dentro troppo. Invece questi piedini sono meno di un centimetro, no, un centimetro saranno, sono in silicone antiscivolo, bello stabile, eccetera. Ci ho aggiunto a quel dipolo che ho fatto un altro, ne ho aggiunto per qua. Oh, ci ho messo anche l'adesivo qua, col teschio, con le ossa incrociate, pericolo di morte, perché qua hai visto, c'è la morsettiera, anche se c'è quel coperchietto di plastica, no? Che copre la morsettiera, lì è sulla destra, arrivato, è 20. Non sa che qualcuno trafficando ci mette le mani, o peggio, vabbè, il gatto non sa leggere. Il gatto, basta che ci passeggi sopra, lì vicino, anche col coperchiettino, no? Un po', se ci passa un pelo della zampa che va a contatto con la fase, la schicchia la se la prende, il saltino lo fa. E che saltino, mi, fino al soffitto arriva. E così si m'ho mangiato un cremino di quelli ambrosica, mamma mia. Guarda, la cosa strana, io prendo cornetti, prendo quelli con lo stecco tipo magnum, prendo coppette, ma il cremino non lo prendo mai. E invece voglio, mi ha detto una buona idea, voglio provare il cremino la prossima volta, sempre che riesca a farlo arrivare a casa integro, che non mi si sciolga tra le mani. Vabbè, c'ho la borsa a frigo, ma sai cos'è? Anche in moto, il bauletto è talmente bollente quando sei in sosta al sole, che ombra non ne trovi, che basta quei due minuti a tornare a casa che già mi trovo il gelato mezzo sciolto. Io l'abbraccio. Mia moglie li ha comprati, ha comprato una viennetta perché ieri era il compleanno, no? E una scatola di quei cremini. No, lo sai che non mi fanno salire la glicemia più di tanto. Me l'ha mangiato uno poco fa. Forse perché un dolce è moderato, Natalì. Cioè, dolce ma non troppo, non è quei dolci nauseabondi, no? Può essere, sai, quelle tortine, tiramisù, zuppa inglese, che c'entrano quel liquore dolce. Così. Aspetta che provo il bip, se me lo sento in cuffie. che fai, sembra un bip di PMR. E ti riviffa. E infatti noi prontamente lo togliamo. Mamma mia quanto è forte in cuffia l'autoascolto. Troppo, troppo forte. Ed è a uno, al minimo. No, no, non si può usare in cuffia, no. Infatti queste sono le cuffie che entrano nelle orecchie, no? Un po'. Io volevo le cuffie, quelle con l'archetto. Beh, non le trovo, perse anche quelle. Cioè, in tutta la casa non ci sono più le cuffie mie, Sony. E pensare che stavo per ricomprare le spugnette per le cuffie, mi. Le vendono da AliExpress, te ne danno un carascio e che arrivano dopo un mese. Però se non trovo le cuffie me le attacco a... Infatti, cazzo, io c'ho il piede ancora gonfio, cazzo, mamma mia. Dice che è successo a Franco, mi ha detto, il piede sinistro anche a lui, e dipende dalle scarpe. Adesso me le compro un numero più grandi, se viene domani andiamo e me le compro, e anche un paio di ciabatte, perché quelle che ho sono di plastica, quelle tipo infermiere, quelle lì ti scaldano i piedi, non me ne pongo più di chissi. Mi compro un paio di ciabatte e ciabatte proprio. E le scarpe da tennis mi compro un numero più grande, in modo che non mi stringa il piede. Io non, allora ho tolto le cuffie a Natalì perché mi stava facendo sordo, sordo. Io ho notato che le scarpe che prendo, vabbè, prevalentemente la ginnastica, prendo il 44 ma sono generose di dimensioni sempre, non sono mai aderenti, strette. È un 44 che sembra un 44,5 o un 45. Guarda, raramente ho trovato scarpe della mia misura però strette, che sembrano un 43. No, strette non le tollero, non le tollero. Le dita davanti devono essere un po' libere. Ma quando sento la luce intrappolata è tragica. E infatti io se quelle che ho sono strette, no? È per quello che mi ha fatto quel discorso lì. Poi uno solo si è gonfiato, capito? Il sinistro, come anche a Franco, gli ha fatto la stessa storia. Ed erano le scarpe. Adesso mi ha detto pigliatele un numero più grande e usi quelle lì, perché quelle troppo strette ti fanno quel difetto. Addirittura Claudio stamattina ci siamo visti e è venuto qua e me l'ha detto anche lui, a prendermi anche un paio di plantari in farmacia e a mettermi le scarpe un numero più grande. Non potevo camminare, c'è da mia moglie stamattina che gli dovevo dare cosa, e praticamente poi è salito lui qua, perché io ero con la gamba in alto. Ciappa. Poi vabbè, io adesso vediamo un po', adesso vado a mangiare a lì. Poi già entrare qualcuno, dai. Io non aggiungo perché qua batte il sole, con la fresca la mia camera, preferisco stare là. Ogni tanto posso passare e salutare, però mamma mia, e sono le mutande, le mutande come le scarpe, non devono essere strette, devono essere comode, non devo sentire la pipiriola intrappolata, capito? Andrà bene me, da. Già rimango in ascolto io. E lo so che c'è caldo, è uscita mia moglie poco fa a portare il cane. Mamma mia, dice c'è un caldo pauroso. E ti dirò che questo non è un caldo pauroso, è un caldo... Aspetta quando se e quando ci saranno 38 gradi, 40 all'ombra in piena estate, speriamo di no, che non venga mai. Allora sì che c'è da morire. Bene, va bene, ciao Natà, buon proseguimento di serata, un saluto a Concetta e boh. Ciao a tutti. Ciao, buon pranzo. Guarda, tutti scappati sono. Veramente se n'è andato Marco perché doveva pranzare. E poi non sono scappati tutti, io ci sono ancora perlomeno. Ehi. Ciao Natali, buonasera. Buonasera anche a Marco, se la radio è accesa, vabbè. L'ho accesa adesso, dai. Pochi istanti fa, dire la verità. Ho freddo, freddo, sto morendo di freddo. Ciao Marco. Raga, lo sentite questo rumore in sottofondo? Sì, una cosa strana, che roba è? È il climatizzatore di un gas di Pullman, gas che si piazza sotto qua, alla fermata. E io gliel'ho detto poco fa l'autista, che praticamente quando si ferma il capolino nel mezzo deve rimanere spento. E intanto continua a tenerlo acceso. Adesso se mi gira i coglioni, se non è oggi, domani gli chiama la polizia. E non riguardemi nulla, perché quelli non consumano niente e poi a spegnerlo e a riaccenderlo è un casino per il motorino avviamento, che quelli sono tutti da mettere in moto. Cosa riguardemi? E poi ridono con muri di gallo. Oh Natale, io l'avevo letto un articolo del genere. Non si può lasciare la macchina, anche la macchina accesa, per raffreddarsi la macchina col clima, perché non sei sempre con queste emissioni continue, no? di scarichi, puoi dar fastidio a qualcuno vicini, di gente che arriva già a finestra, non so. Comunque già lo sai, vigili urbani, cioè 27 41 00, gli spieghi che la situazione è continuativa qua, sistematica, e poi si vedono loro se vogliono fare qualcosa. È veramente fastidioso. Sì. Cazzo, allucinante. Sì. Vabbè. La pazienza sta finendo, Cazzo. Non è possibile. Cioè, spegni il clima. Cazzo, spegni il clima. E boh, cazzo, per il suo cazzo. Cioè ogni tot sistematico, cazzo, praticamente ogni, cioè adesso non so quanto dura la corsa, puntualmente c'è il suo un altro di questo cazzo di cosa acceso, cazzo, il codice della strada parla chiaro, cioè non prendi, arrivi e spegni, non puoi stare così, cazzo, è allucinante. Uno cazzo già un caso gruba con un becchio e si deve sentire, cazzo, questo fracasso del genere, cazzo, va. Tanto mi daghi, andui che va giù il gaffo di crepu, a che intanto se c'è di vicino non li va di minuta. Gianni! Eia! Quanto mi dà che vado io, cazzo, che c'ho lo schiaffo discreto, vedere non accende più. Lì, vado con la mazza da baseball. Guarda, Natali, sbagli così, però veramente fastidioso, Cazzo, veramente fastidioso. Poi a quanto pare, cazzo, questa cosa è destinata a durare parecchio, perché cazzo i lavori ancora sulla tratta ferroviaria del Ghero non sono finiti, quindi cazzo, devo supportare c'è cosa, cazzo, mi arrivi. Non mi fate incazzare il profeta è sempre calmo, è sempre tranquillo, ma se si incazza poi si incazza tutto in una volta. Ah, il Pedivella, no, cos'eri diventato tu? Come lo il cambio? No, Manubrio. Manubrio, ok. Dai, vi lascio tra di voi che vado a pappare. Ciao. Ciao Claudio, ripeto. Ciao Marco, ciao, buonasera a tutti. Cos'è che fai a bordo di Lubrefè? Guacca, mi stavo facendo perdere la pazienza. Adesso, cazzo, il vaso è colmo, Ci sono i pullman sotto casa che tengono il motore acceso e lo climatizzatore a palla. Aspetta, non so se si sente. Cazzo, è veramente fastidioso. Già c'è il rumore del traffico, vabbè, e uno è. Cazzo, lo tollera. Però chi che cazzo sotto lo balconi, adesso ho già avvisato 2 volte l'autista. La prossima volta non avviso nessuno, prendo e richiamo la giustizia. 27 41 00. Vado a chiamare il 113, vedi che alla fine, ma non le guardate, non le guardate nulla del vigile urbano. lì perché cazzo se spengono la macchina la poi devono riavviare, cazzo c'è un caldo da morire, anche gli autisti hanno ragione a un certo punto, però o si parcheggiano più lontano da lì. Non so, dovresti, guarda, ti do un info io, se riesci a avvicinarti alla TP, cerchi la geometra Antonio Sole. Geometra Antonio Sole è responsabile del movimento. E glielo dice a lui che si sta verificando questo fatto. No Claudio, non è ATP. Allora ti spiego. Alcune corse del treno Sassi Alghero praticamente vengono sostituite con dei pullman Gran Turismo di quelle agenzie di trasporto, no? Cioè, e praticamente questi cazzo si arrivano sotto casa, vedi, adesso so che è già 20 minuti che gioco con questo cazzo di motore a seggio, col climatizzatore a palla. Cazzo, è già 20 minuti. Cazzo, e niente, io li ho avvisati già due volte. L'ultima volta l'ho avvisato poco fa. Ho detto, cazzo, cioè, ma il codice della strada lo conoscete? Cazzo, quando voi vi fermate al capolino dovete spegnere, punto e basta. Poi se vi caccia, se freddo non è un problema mio. Cazzo, c'è una norma e quella norma va rispettata. Sì, sì, lo so, però non ci possiamo fare niente. Come ci possiamo fare niente? Ma scusa, ma di che linea è? Leggi, vedrai che è scritta, no? Ci sono numeri di telefono di queste linee. Prendi e chiami direttamente l'ufficio di competenza e lo dice al titolare della linea, cioè al guardone di Bulma. Sì, sono quelle agenzie di trasporto tipo Logodoro Tour, Seunis Tour, cazzo, che cazzo di Puma a noleggio, capito? E Tessi Piazza, Castel Tour, cazzo, sono tutti ramatesi della stessa Rismo. E praticamente, cazzo, vabbè, adesso me ne voglio stare tranquillo oggi, domani se continuano a fare roba del genere vi chiamo cazzo la giustizia. No, Castel Tour non è Logodoro Tour, è una cosa, Castel Tour è un'altra cosa, Tours Viaggi è un'altra cosa, sono tutte diverse linee, capito? Castelsardo, c'è Castelsardo, c'è Nulvi, c'è Alghero sicuramente, quindi prendi il numero di telefono, ma non la chiami il loro ufficio in modo che glielo dicono quando rientrano, capito? Oh mamma mia adesso. Vabbè dai, cambiamo argomento. Oh yeah. Ascolta, dimmi invece, a parte il Bulma, come mi ascolti in radio con il Galaxy, bene? Una bomboletta. Radio buona, bella, chiara, forte e draconiano. 10 e 9. Vabbè, infatti sono sempre gli stessi, ottimo per la truppa. Avanti Natalino. Felipe. Sono qua, mi ero spostato un attimo, a bere. Chiappa, a tornare a scaricare la spesa, è arrivata mia figlia, riprendi già. Eia. Oia. Beh, da quando sono entrato in radio, ancora no, che con la moto era stesso. Oia. Pacari dai. Già anni fa, mi ricordo, cazzo, quando c'era il capolinea della centrale, dell'ATP, la centrale 8, cazzo, proprio sotto roba con i nobi, con quel cazzo di circafusi, i vecchi tram, quelli della Breda, cazzo, che uscivano, cazzo, con i problemi ai freni, i problemi all'aria compressa per la chiusura delle porte, e il camion da Rice di Manzano, fisso sino alle 22 al termine del servizio, sempre con il motore acceso. Cazzo, un altro, mi ricordo una volta stavo per mettere le mani addosso all'autista. Cazzo va. Oh ya. Yeah. Vabbè dai. Saltiamo di pari in frasca. Mi sono appena sfogato, dai, scusatelo. Scusate lo smotto, ragazzi. Vai e fai il 113. Vai. Glielo spieghi la storia, perché se questi possono tenere il motore acceso col climatizzatore a palla che tu non stai bene e devi dormire, digli di così, se no non puoi bene. Allora, vediamo un po', aspetta, faccio una ricerca al computer, allora, riesci a vedere, allora, adesso non mi ricordo che articolo era, c'era il 100... il 165 o il 167 del codice della strada. Specifica che sono pullman però, eh. Ma vale per tutti i veicoli. Allora, amico, è fatto divieto di tenere il motore acceso durante la sosta del veicolo, perché loro sono al capolinea, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria del veicolo stesso. Bla bla bla, l'articolo non vedo, aspetta, 157,7 bis. Vabbè, mi ricordavo 167, vabbè, comunque, c'è isso. Poi ancora peggio sono mezzi pubblici, cazzo, a ver vai, c'è un... non esiste, cazzo, c'è. Un mio amico lo stesso aveva un problema, lo stesso, con la TP alla capolinea della... quello che Castellini aereo, quello che sta di Valmonte, su alla fine via Gressale Redda, quello di San Francesco lì, praticamente c'è una chiesetta con una piazzola e lui abitava lì dietro. E lui pure lo stesso, cazzo, si lamentava, io c'è sempre con il motore acceso. Cazzo, ma avvicina di Rusono, aspetta che lo cerco, allora. 100 articolo 157, sì? Triste, felizia, sempre una gara, da Gino. Articolo 157, 7 bis. E fate vietare il motore acceso durante la sosta del veicolo a scopo di mantenere in funzione l'impianto e condizionamento d'aria del veicolo stesso della violazione e conseguente sanzione, cazzo a voglia, ui. A virtù di video, lo conosci l'articolo 157 e c'era cipato? Ah, l'hai letto tu? Guarda, lo conosci questo articolo 157 da fare il gommista? Non lo conosci? Non se lo te lo faccio conoscere. Alcuni si va andato a Natalino anch'io, ero molto buio. Come ti diceva Fermo, lo aveva detto una volta, alla moglie aveva garringato con Galashnikov e aveva avuto un colpo che lo condizionava, è vero Natalino? Un tiro giù, lui, allora mi dà chi va, come fai? Un tiro giù, tam! Con la campanetta non funziona più il condizionatore. Ma lo sai, ti pago sordene acceso sul motore, a chi da voi a tirare la prima in moto si può facciare un motorino, mi? Per salvaguardare il motorino lo fanno, anche perché a minimo non consumano un cavolo. Ho capito, però cazzo non ti puoi mettere sotto casa mia a far casino a tutti loro, no? No, va bene così, scusa. Già lo so, non potrebbero, se il codice dice che non possono, non possono. L'avevi chiamato Rusenzu Dridisi, Rusenzu Dodisi, e vedrai chi è di andare in chi vi chiudani. Il 113 è più veloce, se lo vengono subito, capito? E io dico una volta solo, alla prossima gli ritiro la patente. Ci sono anche le sanzioni per il conducente. Adesso. È certo che ci sono sanzioni per il conducente, ci mancherebbe altro. Ehi, non lo so qual è la sanzione. Lì bisogna vedere. E se no si passa la stradale in Chivimi. Chi si dipone nello verbale ridendi. La stradale è diverso. Se passano quelli, sono cavoli. Quelli non te lo dicono neanche, ti mettono il verbale e boh. Cosa, Natalia? Non ho capito, cosa hai detto? A stradale ti poni il verbale e boh, non ti ne dici ne manca, arrivini e scrivini. Ah beh, a stradale sì. Ma anche il 113 può intervenire, non c'è un problema. Tanto loro fanno servizio in città, capito? E infatti. Sali e ci prendiamo l'aperitivo, facciamo una macchina sul salito, mamma mia, mi ha gatto, grazie. E dice che non è tanto forte questo caldo di oggi, figurati quando raggiungiamo 38-40 gradi. Non è forte, se è 32, non è forte, conta che sono le 6:20, 32 gradi, ma io non brisce. Marco ha detto che non è tanto forte questo caldo qua. Mia moglie ha detto che raciumenti. È andata a portare il cane e ne è tornata sconvolta. No, lì, ma poi lì, così lì in ambasciata a valle, dove sei tu, è ancora più caldo. Qua sono in alto, c'è un po' di venticello, ma è caldo. Sono uscito fuori, poco fa, è arrivata mia figlia, c'era un caldo a morire. E me lo posso immaginare. E cosa vuoi che faccia? Non preferirei. Eccomi. Io stavo leggendo alcuni articoli che diceva strada, vabbè, allora ci ho mollato tutto. Comunque domani facciamo un paio di telefonate, dai, vediamo un po' di bisanire che cosa. Dobbiamo così andiamo a stradale che vi fa un bel verbale. Dio dici, guardate che cioè, i vostri artisti, questa è la situazione, non mi costringete a far intervenire forse l'ordine, perché altrimenti voi vi pagate la multa. Avvisatevi voi, gentilmente, perché non si può stare qua. Oi. Vabbè, dai. Domani facciamo, dai, adesso non la giocare, poi voglio starmi un po' tranquillo, perché sennò cazzo mi sale la carogna, cazzo, e non ne ho voglia. Vabbè, stata una serena tranquillo, però quella è una cosa che devi fare, perché altrimenti, capito, continua a fare i cavoli suoi, non peraltro ne ha fotti lunga. Anche oggi c'è caldo, eh. Sono uscito ansura, sono andato a tabacchino, adesso roba di caldassa. Sì, c'è caldo, non ti preoccupare, c'è caldo qua in montagna, figurati lì nella bassa valle, sicuramente c'è un bel caldo, anche perché io stamattina sono uscito in moto e c'era caldo anche in moto, figurati. Marco, mangiando stai? Beh, ho visto che c'è ancora l'antenna, ma è tolta, l'hai lasciata ancora. Domani o sabato ne la varo e la restituisco al legittimo proprietario, E così hai deciso? Non prendi niente, rimetti la boomerang? Farsi da un paio di metri in più la boomerang, No, guarda che... Faccio... Prima di scendere era montata su un palo di 4 metri, no, A voglia che è alta, più di un certo tutto non la posso sollevare, Vabbè. Arrivi molto bene con la boomerang, con questa c'hai qualche punto esce in più, però con la boomerang ti difendi molto bene, va bene. Alla fine, cazzo, tutto questo grandissimo guadagno è solo praticamente... è tutto... è fumo negli occhi, non vedo questa grandissima differenza qua, quindi voi me lo state confermando. A me la vostra la passi 70 euro, cazzo, per due tacchi di Smither, infatti, se non c'è molto guadagno in più, io guadagno l'ho visto dalla 5 ottavi alla 7 ottavi, c'è tra la Mantova e la Gepo c'è una differenza di 5 segnali, allora già è una cosa diversa, ma se lì guadagni così poco, capito, si vede la differenza, qualcosa in più ce l'hai, perché io col Galaxy lo vedo, che è un po' più meno selettivo, capito, di K, si vede la differenza, però è poca, capito, per guadagnare un punto S in più cosa di una futti, lasci quella che c'è e i soldi te li tieni in tasca. Non è vale la candela, cazzo, con questi dinami compare giù, se proprio ho necessità di prendere qualcosa, cazzo, mi compare giù un microfono, mi compro la matassa di cavo, cazzo, per una passi così 60-70 euro, non esiste. Ci lascio quella e se la piglia nel bus del gnogno, mi? Nel bus del gnao. Per non dire il bus del culo. Scusate, mi era sentato che stavo aiutando mamma, eccetera. Sì, magari da 5 ottavi cosa gli dà? Magari un decibel in più, no? Un Santiago 6 decibel, c'è ancora talmente infinitesimale che, certo, non dico 70 euro già, però se la trovi, spedizione compresa, sotto i 60, poi vedi tu mi, alla fine. Dunque le differenze sono minime, soprattutto con antenne molto economiche come quelle. Se invece ti pidi una Grazioli, spendi solo 200 euro, ma c'hai una super 5 ottavi. Guarda, per prendere Grazioli per 200 euro, perché costano uguali, ma avrei preso la G-Pod e 7 ottavi, se permetti. La Grazioli ha un guadagno maggiore però, Claudio, perché della J-Pod irradia solo la parte a mezz'onda, quella oltre il tubo parallelo che fa da adattamento. Ma 7 ottavi, io tra la 5 ottavi e la 7 ottavi ho 5 punti S di differenza. Ma io la conosco molto bene la Grazioli, ce li aveva tutte e due, mi ha consigliato la J-Pod a me, non per questo guadagno, perché la Grazioli 7 ottavi lo stesso. Ma tu con 5 punti cosa intendi? 5 decibel o 5 Santiaghi? Se è 5 Santiaghi vuol dire che c'è qualcosa che non va nella 5 ottavi, o Mantova quale hai. Se sono 5 decibel pare anche strano, pare molto strano. Di bello la Gepola che è un po' silenziosa, molto più silenziosa diciamo. Io sto dicendo che è superiore a ragazzi. Poi 150, forse anche più di 50, non vedo tutta la Sardegna, ne conoscono molto bene i Grazioli perché sono quasi tutti radioamatori e ho preferito quella perché irradia molto, molto di più. Ma vabbè, allora tu da 9,5 a 9,10 passo io, 9,5 con la Mantova, 9,10 con la J-Pod, secondo te stai facendo i calcoli? Già fatti sono i calcoli. E Natalino che fine ha fatto? Io sono qui, che fine lui abbia fatto? Ok. E niente, dai. Questo ultimo li tengo in tasca e ciccia. E ci rimetto la mia fedelissima Boomerang. Aspetta un secondo, io arrivo. Oh, no, se metto barrasoni qua, poi qualcuno inizia magari a storcere il naso e voglio evitare di fare cose del genere, dai. Cazzo, mi sono dimenticato di comprare i cremini, Io me l'ho mangiato uno poco fa, Cazzo, sono andato alla Kobek, cazzo, a prendere la roba e mi sono dimenticato i cremini. Va vangula. Io poco fa per più frio me l'ho preso uno e me l'ha già mangiato. Così tanto mi hanno più rubiti. Oi. Col caldo che fa ci sta proprio bene un bel gelatino, yes. Però adesso non ho voglia di farsi torre chivi. Domani. Tomorrow. Olbia. Mamma mia come sto, come dice Claudio, Olbia. Triccia. Senti, buchi tracco. Caldo è, non è stanchezza, è caldo giù, buonasera. Ciao Gianni. E allora, fatti una doccia fredda, così ti riprendi. Scusate, è rientrato che io devo andare a venire sempre da. Ciao Marco. Ciao Giulio, stavo iniziando mamma un po' a andare e tornare al bagno. Claudio, beh, il discorso stavamo parlando di quell'antenna lì, eccetera. Sai cos'è però? L'unica cosa che dico alla ditta, ci sei Claudio? No, si è spostato un attimo. Ah vabbè, allora dopo no. No, l'unica cosa che è un po' alla ditta potevo contestare questa Smarttech che ha dichiarato dei guadagni folli, tipo 7 decibel dBi di guadagno, che non esiste perché una 5 ottavi o comunque un'antenna a più di 3.3-3.5 dBi non ne può avere dBi, dBi, quella cosa di misurazione rispetto al dipolo isotropico ideale che non esiste, vabbè, bla bla bla. perché gli hanno messo dei calcoli, quando hanno fatto il calcolo gli hanno messo dei valori talmente ottimali, è come se l'antenna l'avessero piazzata in mezzo al mare, quindi col mare che fa da specchio, che riflette benissimo. Hanno usato dei valori non realistici, dai, troppo pompati per dichiarare una cosa così folle che non ha proprio riscontro. Gianni, riprendi che sto sempre finendo di mangiare, vi ascolto. Ma di chi stiamo parlando? Quella che c'ho io o della reazione? No, no, quella Claudio. Ho detto che gli hanno dichiarato tipo 7 decibel di BI di uranio, mi pare. Si hanno usato nella simulazione dei parametri talmente ottimistici che è come se fosse piazzata in mezzo al mare. Cioè con il mare che fa da specchio, quindi con... troppo ottimistici i miei parametri, ecco, quindi non è realistico. Comunque sì, è sempre una buona antenna, diciamo quello che l'aiuta è che è molto alta, cioè la parte di sotto, anche se rimane quasi inerte, che serve da adattamento, però la alza la parte che irradia è molto ma molto ma molto in alto, capito? Quello l'aiuta. Riprendi Claudio. Vabbè, comunque dico che io guadagno un metro davanti alla 50 alla 180, poi la reazione l'hanno provata e diciamo che i risultati sono quelli, a prove fatte non è che cambia molto, assolutamente, io mi trovo bene con questa, costa gli stessi soldi, ho preferito questa. Vabbè, ci sentiamo dopo, mi devo allontanare un attimo dalla radio. Riprendete. Non si modula a bocca piena. Sono Crocomane, questo Marco. Ciao Giulio. Ciao Natalia, ciao. Comunque Marco, riguardo il guadagno delle antenne hai ragione tu. Sono tutte balle quello che scrivono per invogliare la gente a comprarle, no? Dice questo ha tanto di guadagno e la gente ci casca e prende quella dove ci sono più bugie, in poche parole. Poi naturalmente tutte vanno bene, sia ben chiaro, ma ci sono anche delle differenze, come appunto stava dicendo anche Claudio. Ci sono delle differenze in antenna, io lo credo, questo è normale. Ma per questa frequenza va benissimo a qualsiasi antenna, non c'è problema. Lo dimostra Gianni, il profeta, lo dimostra con la boomerang che arriva dappertutto. Ok. Vai Gianni. Gianni ha seguito il mio consiglio, era accaldato, è andato a fare una doccia fredda. Ha seguito il mio consiglio che gli ho dato poc'anzi. Vai Marco. Stavo leggendo l'articolo, sempre roba di radioamatori o a Rifidenza o quell'altro forum, parlavano di antenne e hanno detto che per esperienze quarantennali, cinquantennali, passava una Skylab, una classica antenna gran pieno, un quarto d'onda, quella con i classici tre radiali. Basta che fosse alta mezz'onda dal tetto o dal terrazzo, insomma, quindi palo a 6 metri classico, per avere risultati veramente ma veramente eccellenti, tanto quasi da non avere, scusa, quasi da avere una differenza talmente minima dalle 5 ottavi da non valere proprio la candela. L'importante era però piazzarle a multipli di mezz'onda, cioè almeno mezz'onda comunque dal tetto, perché se la metti troppo bassa, la Grand Plain classica un quarto d'onda, allora lavora male, però se tu la metti come Dio comanda, con palo a 6 metri, quindi dai 5,50 in poi va bene, hai dei risultati da lasciare anche sbalordito, capito Giulio? E poi quella gente che ne tratta, cioè si dice vita, morte, miracoli su antenne, gente che c'è da 60 anni in frequenza, cioè. Va bene, Natalino riprendi. Sì, infatti. Cosa qui, parametri che hanno messo tutte balle, lì pollo isotropico guadagna zero. Ed è l'unica vera verità, è quella del dipolo, appunto lo volevo dire io anche, ma mi hai preceduto Natali. Il vero guadagno reale è quello del dipolo, il dipolo isotropico. Infatti, cosa buon misetti di B, di guadagno, ma... Poi ho letto, Natali, qualcuno ti mette guadagni in DBD, DBD. Quello non lo conosco come misura di riferimento. Cosa cambia da DBI a DBD? L'hai toccato quell'argomento lì? No, negativo. Non l'ho mai toccato quell'argomento lì. Però so per certo che il dipolo isotopico guadagna zero. DBD probabilmente è DBD di repressione, Marco, suppongo che sia così. Quindi tante cose che io in tanti anni avrei potuto approfondire, però alla fine, visto che poi tanto non devo fare né esami né niente, invece per la curiosità personale avrei dovuto approfondire tanti di questi aspetti di antenne, eccetera. Va bene, dai, che continuiamo a mangiare, se no qua non riusciamo. Ma io stavo leggendo anche focarsi qualcosa detta dall'ARI, non mi ricordo di quale città, è comunque un'associazione di radioamatori, di quelli qui, di professionisti, diciamo, della radio, che hanno seguito quello che io ho detto tantissimo tempo fa a riguardo soprattutto del cavo di discesa, che deve essere tarato in base alla frequenza che si utilizza, che poi tra l'altro la frequenza di utilizzo dovrebbe essere questa banda, il canale 19, a differenza di tutti quanti che dicono canale 20, no, il centro banda è canale 19, 27185, questo è quello che ho letto più volte e lo so da anni, io sempre questo, che è così. E poi ci sono dei calcoli da fare che ti dà il metraggio per la determinata frequenza di quanti metri di cavo di discesa di utilizzare. Ok, vai Natalia. La frequenza, aspetta com'era, ma la velocità della luce diviso la frequenza per la velocità del cavo. Esatto, tenendo conto della velocità di trasporto del cavo, certo, quello è interessante perlomeno, perché vuole essere proprio precisino, poi se uno vuole fare le cose perché mi vanno bene così, va bene lo stesso, non è un problema, però stando a delle precisazioni tecniche che si devono adottare, cosa che noi CB non adottiamo, per cui va bene lo stesso, però non è quella la regola, insomma, ecco. Vai Marco. Marco, ma se stai parlando di Giulio qua non arriva e ti copre la propagazione. Ma chi, copre lui o copre me? Potenza minima. No, copre lui, no, non lo sento quello che sta dicendo io. Tu mi arrivi a bomba, ho capito. Anche troppo forte, non so se mi stai ascoltando, qualcuno mi farà da ponte. Vai Marco. Sì, sento Roma sotto, però io sono più in basso, non sono esposto. Comunque è vero, l'installazione è determinante anche. Cioè, in base a che sia antenna si usa un quarto, mezz'onda, 5 ottavi, certe hanno bisogno di un'altezza minima dal tetto, no? o dal pavimento del terrazzo, perché altrimenti non sono efficienti quanto dovrebbero essere. Vediamo se è rientrato il profeta. No, già ne ha farato a caso sicuramente. Natalino, dici qualcosa tu, poi ti interroghiamo. Il geometra Lumbao mi diceva che taravano anche il cavetto del rosmetro, accordavano anche quello, figurati, per avere la misurazione giusta proprio. Vuole tarato anche il cavetto del rosmetro. Tutte quelle misure 30, 60, 90 sono tutte bagianate. Tutti fagiulli, cioè, allora, abbiamo già visto, sono tutti fagiulli, sono tutti vissati, non tutti misuri. Ma io andavo a occhiometro, Natalì, a occhiometro, non è che mi... cioè quello che mi serviva a me di spezzone facevo, però abbastanza lunghe, quelli a 45 o come si dice, certe volte non fa manco una curva e già finito il cavo, capito? diciamo sotto il metro, potevano essere 90, ma non li misuravo io, come in base alla necessità di lunghezza, capito? E, aspetta, che mi sta venendo caldo fuori di parlare e mangiare. Sta venendo caldo, riprendete voi un attimo. Io per esempio per fare il balun di un'antenna a 2 metri, per i 2 metri, gli ho dovuto fare il balun misurando il cavo, capito? Se no non andava. E anche quella UHF avevo misurato il cavo per la frequenza che era. Vabbè, io adesso non è che vorrei di nuovo. Santiago Rotto è qua, mio. Ho fatto un... Ma chi? Io, Giulio, soprattutto io. Ma Santiago 5, a lungo di questo fatto qua. Sta usando un bat. Sono affiliato anche con un gatto di guerra qui. Io continuo a dire di sì, perché le cose tecniche non si devono mai sottovalutare, per cui io dico sempre che bisogna andare sempre con i multipli della lunghezza d'onda. Ti serve per dire, non so, 20 metri di cavo, tanto per fare un esempio, e tu ne compri 20 metri, ecco, quei 20 metri vanno accordati alla impedenza dell'antenna, perché se no c'è una variazione, premesso che va bene lo stesso, sia ben chiaro, però se dobbiamo essere precisi e andare in base alla tecnica, deve essere accordato, non c'è niente da fare, così e basta, poi ognuno la pensa come crede. Vai Marco. Sì, Giulio, ma per curiosità stai usando un watt? Perché qua 6,8 di segnale, proprio, non dico risicato, perché propagazione io sono più in basso, però il radio è molto ma molto più in alto, prende propagazione a manetta, e quindi vabbè, come dire, QRP, ma fino a un certo punto, no, 4 watt vanno più che bene, che qua non ce le ho nemmeno, mi pare che ho 2 watt e mezzo utili, perché il filtro mi ruba un watt. Poi cosa volevo dire? Aspetta, vediamo se è entrato Gianni, magari è sceso a parlarci con quelli di Pullman. No, si spostava. A me arriva 9,5 Giulio, capite? Sono più in basso di Teo Marco, però sto usando un watt sicuramente. Aumenta un pochino Giulio, perché c'è propagazione, Claudio ha detto che non ti sente. E cosa ha detto Marco, che gli arrivi Santiago 8? A me 9,5 la verità. Ma sai perché è nata lì? La presidente che si crede speciale ha tarato questi smitter secchi, cioè Santiago 9 100 microvolt anziché 50, quindi se lì doveva arrivare 9 normalmente arriva 8 questo smitter. E così l'hanno scritto, boh, non lo so perché, vabbè. Sì, ma il segnale lì da te, Marco, è quello giusto, no, non c'è problema. Posso capire che magari da Claudio non arrivo, perché è molto più in alto, molto più lontano, volevo dire, non più in alto, più lontano, oltre al fatto che è in alto. Però il segnale mio verso di te è quello giusto, perché con questa potenza non è possibile, anzi mi meraviglierei quando supera l'8, figurati un po', però va bene così, lo uso così, pazienza, chi non mi sente pazienza, non posso fare altro, dai, avrò dei motivi validi, no? Non sono così cretino, ma ho dei motivi per cui non posso continuare ad avere di più, ecco, vai Natali. Ok, abbiamo capito, dai. No, ma non è che qua non arrivi, arrivi S5, S6, capito? Però se solo la propagazione, questi cacchio di inglesi, tedeschi che vi sono tornati in occhio a metà di beri, ti coprono tutto lì, capito? Io so che ti sto arrivando bene lì da te, io sto usando la massima potenza del Galaxy, quindi per forza ti arrivo, però tu qua arrivi 5-6, però se aumenta la propagazione faccio difficoltà ad ascoltarti, capito? Vabbè, d'accordo, ho capito, ma io propagazione della verità non la sento, però è così, cosa vuoi che ti dica? Sì, tu arrivi bene, certo che arrivi bene, ti ho detto anche poc'anzi, anche troppo forte, per cui addirittura l'avrei anche abbassato, penso un po', ma tu fai quello che vuoi, no? Nessuno ti obbliga e nessuno ti impedisce di fare e di mandare la radio che vuoi, per cui va bene così, non c'è problema. Sarò io ad abbassare quando è necessario, abbassare la tua modulazione se la ritengo troppo forte. Comunque va bene, chiara, bella, pulita, no, non ci sono dubbi, molto forte comunque, dai, va bene, vai Marco. Cappa, no, no, già c'è qualcosa sotto Giulio, spagnoleggiante credo, perché qua gli spagnoli purtroppo, dico io, ce li ho a portata d'orizzonte, mentre proprio l'Italia, nella penisola italiana che avrei voluto libera, ce l'ho chiusa da tutta la collina di Prunicedda, lì via Gorizia, via Prunicedda, è un vero peccato. Vabbè, poi la propagazione fa miracoli, però avrei preferito l'Italia e non gli spagnoli, anzi gli spagnoli li avrei voluti chiusi, avrei voluto dei monti proprio insormontabili da chiudermi il segnale. Va bene, vediamo se è entrato Gianni. Gianni è andato a bucare come un ulma. Infatti ho detto, ho sceso a pararsi con gli autisti, oppure ha chiamato qualcuno, perché veramente è un coso lì, è un'abitudine, capito? Un'abitudine, quella non è nemmeno una fermata per far scendere le persone e ripartire subito. Allora arrivano nel capolino, mentre che devono stare mezz'ora fermi, motore acceso, quindi l'uviago del diesel e questo casino di carro armato che fanno quei mezzi là. Boh, non ce l'ho già detto, ma comunque ognuno c'ha i problemi suoi, voglio che ti dica. Va bene, va bene. No, Giulio, io sto usando il tanner più 3 col Galaxy e ce l'ho a 2, guarda. Se non basta ancora non esce più. Mi spinge molto con questa radio, non è che sto andando mai come fa qualcuno, lo tengo sempre a 2. Che spinge parecchio questo microfono, posso mettere l'altro ma mi pare che non ci sia la batteria. Va bene, avanti Natalia. Cappa, io sto usando l'MB più 4 invece con la 3009 homologation. Io sto usando parecchio lo stesso, non sono messo avanti per farlo andare un po', ma che è sempre fermo. Faccio fuori, ho detto, ma lo uso, siccome non lo voglio avere, perché è una bella radio, nuova, ma la tengo e ogni tanto la facciamo andare. Va bene, avanti Giulio, come stai? Comunque tutto bene, tutto a posto, sì. Subito, se ho messo lo allungo, no? Come facevo sempre, addirittura quello mi serve per cambiare canale. E dunque non va bene, per cui ti ho rinunciato a quel microfono lì. Vai Marco. Cappa, avete ripreso assieme a Claudio. E Claudio ci stava chiedendo una cosa, vai Claudio per Giulio. Sì, ho capito Giulio. No, ti ho chiesto come stai, se va tutto bene. Sì, sto bene. Sto bene, grazie a Dio, grazie qua. Sto bene, naturalmente si sa, il tram è sempre quello. Devo continuare fin quando non finisco tutto il percorso, che adesso dovrò riprendere al prossimo mese. Il percorso che continua ancora, credo per 6 mesi, non lo so quanto, comunque dovrebbe essere così, stando alle tabelle, dai. Capito qua? Sì, capo, ho capito. Io avrò un po' di pazienza piano piano. Finirà questo tram, l'importante è che stai bene, che questa cura che stai facendo sta andando tutto a gonfie vele, l'importante è quello, eh. Sempre tantissimi auguri per una pronta e fine guarigione del tutto. Vai Marco. Io, vabbè, mi sono fatto sentire poco dal mio medico per quella cosa mia, no? E vabbè, un mio dolo, ma grazie a Dio anche il medico, cioè, sapendo che è il medico curante, che c'è una bomba a mano in testa che potrebbe esplodere in qualsiasi momento, nulla, come che siamo già morto, non mi ha cagato più, non mi ha chiamato, proprio... Cioè, non ho chiamato io perché dimenticanze oggi, domani, ma lui, grazie a Dio, proprio la classe medica non ha più gana, da quando è venuto il Covid non voglio fare più niente. Mi hanno rotto la scatola però sta cosa dei medici, perché anche mia moglie deve fare delle visite, prenotazioni, controprenotazioni, spostamenti, è una rottura di scatola veramente, non so più. Adesso poi tra l'altro stavo sentendo oggi la TV che stanno salendo nuovamente i contagi, si spera che non ci sia un'altra annata di contagi più alta adesso nel periodo estivo. E sicuramente è colpa di chi ha mollato tutto così a 448 fuori mascherine, tutti all'aperto a fare quello che vogliono, stadi pieni, gente che ancora c'è il 50% della gente che non ha fatto manco un vaccino, quindi vabbè, a me non me la fotte nulla, io sono vaccinato, quindi non me la frega niente, però è veramente una grande rottura di scatole questa cosa, non ne usciremo più, vai Natalie. E infatti, io pure me la sto temendo. Bisogna stare attenti, bisogna stare molto attenti, molto molto attenti, perché questi deficienti non va, se questa gente che non si è vaccinata, secondo me crea problemi, tu vedrai che crea tanti di quei problemi che, perché si è inserita nell'organico di quelli che praticamente sono stati mollati al Passo Lombardo, come 90.000 persone allo stadio, durante la partita dell'Italia, adesso gli stadi sono tutti pieni, ho visto, io non ci sono andato, ma ho visto cosa c'era qua alla Torres, la finale dei playoff, cioè da paura, come se niente sia successo, però qualcuno si deve ancora ricordare che non funziona così. Che non funziona così e poi è pericoloso, dove ci sono assembramenti è meglio che uno se la metta la mascherina, c'è poco da fare. Che possa cercare di ovviare anche queste inconvenienze che purtroppo ancora non è finito. Cosa vuoi che ci dica, Cla? Ognuno la pensa a modo suo, sento Gabri, sento Barrette, come si dice a Sassari. Lasciamoli fare, noi facciamo tutte le prescrizioni più inimmaginabili, io continuerò a tenere la mascherina quando vado fuori, quando vado vicino alla gente, perché ancora so benissimo che non è finita la pandemia. Anche ieri ce n'erano 1300 e tanti, oggi non lo so, avanti ieri 1740 in Sardegna, e oggi non lo so perché ancora non ho controllato. Comunque lasciamoli fare questi incoscienti, vai Natalie. Infatti, uno deve stare attento non quando esce così, che non trova nessuno, quando ci sono gli assembramenti, lì è pericoloso, è lì che bisogna mettere la mascherina, al chiuso lo stesso, bisogna mettercela dove ci sono persone, ma cosa non usai, uno può sembrare e si contagia. Perché nessuno è malato, ma purtroppo è stato aperto troppo in fretta il varco così in generale, capito? E quindi la gente continua a fare quello che faceva prima, anche nei bar si entra senza mascherina, nei supermercati, la turbata che ci sia uno lì che ti è a un metro, che non è vaccinato, e che è sintomatico, tu sei vuotito, e da lì parte la catena. E questi contagi stanno succedendo per questo, solo esclusivamente per questo. Allora, se volete rimanere scandalizzati, andate sabato notte in via Torre Tonda, al chiuso del cannaio, gente in lembo, uno sopra l'altro, uno sopra l'altro, ora di capo. Ma come lo dici? A me mi racconta mia figlia queste cose. Cosa pensi che mia figlia è nel settore bar, quindi lo vede. Tante volte le dici anche cosa. Capisco che però staccati.